Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, buona Pasqua a tutti e un saluto e un augurio particolare naturalmente a chi ci dovesse ascoltare dall'Abruzzo, ma comunque trasmettete la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, in particolare in questa giornata, a chi è stato colpito dal terremoto e a tutti gli amici abruzzesi. In questa occasione, in cui ricordiamo appunto la Pasqua, voglio segnalarvi uno dei testi più importanti di una delle coscienze più limpide del Novecento, Simone Weil, nata nel 1909, morta nel 1943, scrittrice, filosofa, approdata a una sorta di misticismo cristiano. Di lei Adelphi propone Attesa di Dio, 350 pagine, 25 euro, curato da Maria Concetta Sala. Il nucleo principale di questo libro è costituito da 5 lettere che la scrittrice mandò tra il 1941 e il 1942 a un padre domenicano, Joseph Marie Perrin, che le aveva chiesto di aderire formalmente alla Chiesa Cattolica. La Weil rifiutò e ne spiega qui in queste lettere le ragioni, approfondendo la sua visione filosofica, teologica e illustrando una concezione religiosa originale e complessa che vuole essere anche una risposta alla condizione umana che aveva tanto appassionato i primi passi del pensiero della Weil. E poi il volume è completato da altri scritti molto significativi per cogliere il suo pensiero. Da questo libro vi propongo alcune righe relative a due famosi incontri con il cristianesimo che avvennero in due tappe, la prima qui in Italia ad Assisi e la seconda invece in un'abbazia francese. Sono tappe fondamentali nella vita della scrittrice che avrebbero avuto poi un'influenza determinante sulla sua esistenza e sul suo pensiero. Nel 1937 ho trascorso ad Assisi due giornate splendide. Mentre mi trovavo da sola nella piccola cappella romantica del XII secolo all'interno di Santa Maria degli Angeli, incomparabile meraviglia di purezza dove San Francesco ha pregato tanto spesso, per la prima volta nella mia vita qualcosa più forte di me mi ha obbligata a mettermi in ginocchio. Nel 1938 ho trascorso 10 giorni a Solesmé, dalla Domenica delle Palme al Martedì di Pasqua, e ho seguito tutte le funzioni. Avevo fortissimi mal di testa e ogni suono era per me come un colpo. Eppure, un estremo sforzo d'attenzione mi permetteva di uscire dalla miserabile carne, di lasciarla soffrire in disparte, rannicchiata in un angolo, e di cogliere una gioia pura e perfetta nell'inaudita bellezza del canto e delle parole. Quell'esperienza mi ha permesso, per analogia, di comprendere meglio la possibilità di amare l'amore divino attraverso la sventura. È naturale che durante quelle funzioni il pensiero della passione del Cristo sia penetrato in me per sempre. A chi si interroga sulla figura di Gesù Cristo, semplicemente non crede, segnalo il libro di Matteo Rampin, Versioni di Cristo, storia del profeta dell'amore messo a morte per lo scandalo della sua vita. È pubblicato da Ponte alle Grazie, 206 pagine, 14,50 €. Il titolo secondo me è leggermente fuorviante, si tratta in realtà in questo libro di 26 medaglioni che sono volti a mettere in discussione la natura e il significato della figura di Cristo, a partire dal primo medaglione che descrive la morte di un vecchio papa che è facilmente riconoscibile, che proprio sul letto di morte capisce di aver lottato per nulla. E così nel libro Gesù diventa protagonista, per esempio, di un complotto sfuggito di mano ai romani che lo avevano organizzato e che avevano proprio addestrato quest'uomo chiamato Gesù a utilizzare doti magiche e illusionistiche per fondare la propria fama. Ma c'è anche nel libro una testimonianza che viene dal fondo di Auschwitz, dove Dio riesce ancora a ispirare parole di amore anche per gli aguzzini. Parliamo adesso di tre preti famosi che hanno fatto la storia non soltanto della Chiesa nel Novecento. Il primo è Don Primo Mazzolari, di cui proprio oggi ricorre il 50° anniversario della morte. Era nato nel 1890, morì appunto il 12 aprile del 1959 e di lui esce Il Padre Nostro, pubblicato da Pauline, 118 pagine, 9 euro. L'autore, come dicevo prima, è uno dei protagonisti della Chiesa italiana, famoso soprattutto per i suoi interventi antifascisti. E qui troviamo alcuni testi che furono ricavati da prediche fortunosamente raccolte. Le aveva tenute questo sacerdote a Milano nel 1957 e qualche mese dopo a Ivrea nel 1958. Mazzolari era stato condannato dal Sant'Uffizio, non poteva predicare fuori dalla sua parrocchia di Bozzolo, ma l'arcivescovo di allora di Milano, Giovan Battista Montini, quello che poi sarebbe diventato Paolo VI, chiede una deroga per fare partecipare anche questo sacerdote a un'iniziativa straordinaria che aveva appunto lanciato Montini, che si intitolava appunto Addio Padre, tema sul quale Don Primo Mazzolari sarebbe poi tornato a Ivrea. E queste pagine di Mazzolari diventano così una sorta di testamento, una testimonianza anche di una religione meditata che richiama ciascuno alla responsabilità e all'impegno, come dimostrano queste righe che adesso vi propongo, che traggono spunto proprio dalla Pasqua. C'è un'altra maniera di sentire il rapporto col Padre Celeste. Siamo nella stessa casa, ma così. Ci vediamo occasionalmente. Sì e no alla domenica. Sì e no alla Pasqua o a Natale. È la relazione, vorrei dire, della maggior parte dei cristiani. Non voglio aggiungere di oggi, ma di tutti i tempi. Religione d'abitudine. Convivenza d'abitudine. Tradizione che ci tiene insieme legati. A un certo momento non abbiamo neanche il coraggio di rompere la tradizione, perché ci vorrebbe una certa audacia, benché ci siano tanti richiami che possono rendere questa audacia meno costosa di una volta. Oggi andar fuori di casa non costa molto, costa piuttosto il rimanerci, e il rimanerci bene. La maggior parte di noi è in queste condizioni di relazioni abitudinarie, tradizionali, di fronte alle quali non c'è che il richiamo alla coscienza personale del credente. E l'unica resistenza è qui dentro, una certezza solida, chiara, intelligente e una direttura coerente della nostra vita morale, che ci dà anche la capacità di giudicare, di non lasciarci impressionare, di sapere resistere agli incantamenti di tutti i generi che la vita di oggi ci può offrire. Un altro grande prete che fece molto discutere è Don Lorenzo Milani, famoso priore di Barbiana, vissuto tra il 1923 e il 1967. Don Lorenzo Milani fu certamente un prete scomodo, di quelli che mettono subbuglio nella Chiesa e nelle gerarchie, che aprono grandi polemiche, grandi dibattiti, capaci di farsi molto amare o di farsi molto odiare. Fulcro della sua attività, come molti ricorderanno, fu una scuola che egli fondò in un ambiente isolato, difficile, povero, con lo scopo di dare a tutti gli studenti la possibilità di capire effettivamente, di appropriarsi degli strumenti innanzitutto linguistici e conoscitivi che permettessero loro di affrancarsi da condizioni di povertà e di soggezione intellettuale. Per questo fu considerato un prete di sinistra. A Don Milani è dedicato il libro L'Apocalisse di Don Milani, è curato da Marco Gennari, è pubblicato da Libri Scheiwiller, che è un marchio del gruppo 24 ore, l'editore di questa radio. Sono 244 pagine, 15 euro. Questo libro raccoglie scritti di vari autori di vario orientamento che hanno tutti avuto modo di frequentare Don Lorenzo Milani. Si va da Montanelli a Rodari, da Silone a Bocca, da Ingrao a Pasolini, dal Cardinal Martini a Don Gianni Baget Bozzo. E sono testimonianze tutte rapide, spesso di carattere giornalistico, talora anche contraddittorie proprio per i diversi punti di vista che vi corrispondono, che restituiscono tutte vivacità a un personaggio che forse è diventato un santino troppo presto, ma che ha dato un contributo importante a tutto quel lungo dibattito che poi sfociò nel 68. E con l'ultimo prete veniamo ai giorni nostri. Vi propongo infatti la figura di Don Giussani, che ci è presentata da un confratello, un religioso, Massimo Camisasca. Il libro si intitola La sua esperienza dell'uomo e di Dio, è pubblicato da San Paolo, 166 pagine, 14 euro. L'autore ha conosciuto bene Don Giussani, il fondatore di Comunione e Liberazione. Massimo Camisasca è stato infatti insegnante, ha fondato lui stesso una fraternità sacerdotale, una comunità intitolata I Missionari di San Carlo Borromeo. E quindi uno dei più adatti per accostarsi a questo altro grande protagonista della Chiesa italiana, di cui qui ripercorre, ripeto con grande vicinanza e simpatia, la carriera e la vita. Ricordavo che Don Giussani è stato il fondatore di CL, in realtà aveva mosso i primi passi di organizzatore dei movimenti giovanili già in gioventù studentesca, Giussani aveva scommesso fin dagli inizi della sua carriera, infatti, sui giovani e si era per questo dedicato all'insegnamento della religione in un liceo milanese e nel 68 appunto aveva fondato CL, che sarebbe diventata poi una delle organizzazioni cattoliche più ramificate e importanti della vita cattolica. Quindi è interessante per tutti conoscere questa figura indubbiamente carismatica che ha segnato la vita di migliaia e migliaia di giovani, magari ormai non più tali, ma che sono rincalzati dalle nuove leve e ha segnato la vita di tanti protagonisti anche di un particolare approccio alla politica italiana. Concludo con un romanzo adesso che ha protagonista un cristiano inquieto alle prese con una ricerca continua con se stesso. Il libro è di Marco Garzoni, Il codice di Tarso, San Paolo, 242 pagine, 19 euro. L'autore è giornalista, psicologo, psicoterapeuta, è un osservatore molto attento della vita della Chiesa, in particolare della Chiesa ambrosiana, è un'espressione di quello che banalmente si chiama cattolicesimo di sinistra, e ci dà qui un romanzo sul ritrovamento di due testi apocrifi di San Paolo, due lettere destinate niente di meno che una ai milanesi e l'altra ai romani. E proprio queste due lettere sono il clou del libro, che ruota intorno al ritrovamento di questi testi da parte del protagonista e poi all'impatto che esse hanno sulla sua vita. Le lettere rappresentano una sorta di breviario morale ai cittadini del XXI secolo, capaci di entrare anche nel vivo delle questioni di oggi, con molti riferimenti polemici e trasparenti a situazioni contemporanee. Per esempio, nella lettera ai milanesi si leggono chiari alcuni riferimenti all'Expo, perché la lettera di San Paolo, o del presunto San Paolo, dice: sento dire che Milano sta lavorando per diventare più grande e conquistare fama ancora maggiore nel mondo. Sono stato a Corinto, a Efeso, ad Atene, a Roma, a Gerusalemme. Io stesso sono cittadino di una città non senza importanza. Vi esorto e vi scongiuro, vigilate fratelli carissimi, vigilate. E poi c'è tutta una lunga ammonizione ai milanesi perché non si lasciano trascinare da interessi puramente materiali, ma appunto che questa opportunità serva a riaffermare dei valori morali, quelli ai quali naturalmente San Paolo si riferisce. E a questo punto il confettino. Ci rivolgiamo adesso ai più piccolini, ai quali segnalo un libro per riscoprire il gusto di parole un po' rare. Parole ho appeso un filo, di Laura Pappetti e Andrea Prandin, pubblicato da Coccole Caccole, costa 14 euro. Da Assaggio a Zizzania troviamo qui 20 parole che danno spunto a una riflessione scherzosa accompagnata dalle belle immagini di Brunella Baldi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. La storia dei libri può essere altrettanto avventurosa delle trame che i libri raccontano. Sarebbe il caso di dire che meriterebbero spesso proprio un libro. E questa volta il libro arriva. È quello che vi segnalo adesso, di Giovanni Ragone, che è un professore all'Università di Roma, alla Sapienza, e si intitola Classici dietro le quinte, storie di libri e di editori, da Dante a Pasolini. È pubblicato dalla Terza, 376 pagine, 20 euro. Si comincia con l'arrivo della stampa in Italia. Nel 1464 circa, a Subiaco, un'innovazione che ha un immediato successo e naturalmente cambia anche in Italia radicalmente l'approccio con il libro e soprattutto dà vita a un autentico mercato editoriale. Ma anche prima che la stampa fosse inventata o arrivasse in Italia, ci sono esempi di larga per l'epoca diffusione di testi. È famoso il caso, per esempio, della Divina Commedia di Dante. E proprio di questo parla questo libro di Ragone, cioè delle autentiche avventure che nascondono le edizioni dei grandi classici, da Dante appunto e Petrarca fino a Gadda e Pasolini, quindi fino ai giorni nostri. Ma sentiamo su questo tema l'autore. Buongiorno a Giovanni Ragone. Buongiorno. Professor Ragone, questo è un libro che attraverso le storie di molti capolavori, da Dante e Ariosto fino ai giorni nostri, racconta l'ambiente editoriale. Ecco, c'è un elemento, qualche cosa che è rimasto costante nel passare dei secoli nell'ambiente editoriale? Qualcosa che è rimasto costante probabilmente c'è, ed è, come dire, per certi aspetti l'imprevedibilità, nel senso che fin dal 400, dal 500 già molte iniziative tipografiche editoriali sapevano vagamente su quale tipo di target poter puntare, facevano dei conti preventivi, però come nel libro si vede ripetute volte, molto spesso il diavolo ci metteva la coda. Qual è stato il caso più sorprendente di fallimento di successo, secondo lei? Ma più che di fallimento di successo, molto spesso il successo c'è stato ed è anche grande e anche previsto per certi aspetti, però l'autore o l'editore non è riuscito a rientrare neanche delle spese, no? Per esempio sono i famosi casi di Manzoni con I Promessi Sposi, dove dopo essere rimasto scottato dalla prima edizione, che era stata piratata in giro per tutta Italia e perfino all'estero, Manzoni ha tentato un sistema per la seconda edizione del 40 di mettere su praticamente un'impresa editoriale propria, e trovando tutti i marchingegni per non essere defraudato del suo successo, e poi anche in questo caso non gli è andata proprio bene. Senta, rimaniamo sui Promessi Sposi. Nel capitolo che dedica al capolavoro di Manzoni, lei sottolinea come Milano in quel momento svolgesse un ruolo di leadership nella cultura politica e istituzionale dell'Italia non ancora unita. Quindi insomma, questa posizione particolare di Milano in campo editoriale è una tradizione. Dunque, è una tradizione che deriva dal crollo dell'altra grande capitale editoriale che abbiamo avuto nel corso dei secoli, che è stata Venezia. Cioè Venezia, fondamentalmente con l'invasione di Napoleone, finisce definitivamente di essere il principale centro editoriale italiano, e proprio nell'era napoleonica e poi durante la Restaurazione Milano cresce e diventa gradualmente, ma insomma con una notevole velocità, il polo vero e proprio dell'editoria in Italia. Anche a spese di Napoli, mi pare di ricordare. A spese di Napoli, perché a Napoli la dimensione industriale nell'editoria non si è mai riusciti a conquistarla, mentre a Milano, che pure aveva un tessuto di piccole imprese editoriali fino all'unità più o meno, però dopo l'unità alcuni grandi editori fanno il salto di qualità e passano alla dimensione di leader di mercato nazionale, di un mercato nazionale che si costituisce con l'unità all'atto pratico, per cui godono del fatto dell'eliminazione dei dazi, della possibilità di avere una platea di gente istruita molto più ampia, e diventano rapidamente capitani d'industria, insomma, e non soltanto intellettuali editori, letterati editori, giornalisti editori. E l'avvento delle reti che impatto avrà sull'oggetto libro? No, l'oggetto libro ha alcuni vantaggi evidenti su altri media, nel senso che è un oggetto che consente intanto la stabilità. Cioè, in realtà noi abbiamo bisogno, oltre che di testi molto mobili come sono quelli che produciamo in rete, abbiamo bisogno di testi stabili ai quali tornare, e che costituiscono non soltanto memoria ma anche depositi, come dire, per le nostre attività intellettuali e di autoformazione. E su questo il libro è ancora oggi abbastanza imbattibile come forma. Naturalmente il fatto che il libro digitale adeguatamente conservato, adeguatamente curato, possa funzionare altrettanto bene, non ci sono grossi dubbi. I costi della carta incideranno, però diciamo è la forma libro, cioè come oggetto fisso, come testo fisso, come testo stabile, che non ovviamente non confligge con invece l'altrettanto grande necessità che noi abbiamo sempre di più di testi invece mobili, che possano variare la loro forma, che noi possiamo contribuire a creare e a costruire, come sta avvenendo negli anni della rete. Certo, e noi seguiremo questo fenomeno anche da questa trasmissione. Grazie a Giovanni Lagone, autore di Classici dietro le quinte. Buongiorno. Buongiorno, arrivederci. Rimaniamo dalla parte dei classici con la riedizione di una delle migliori, forse la migliore traduzione di quella che molti considerano l'opera più importante della letteratura russa, certamente quella alla quale i russi sono più affezionati, e cioè L'Eugenio Onegin di Alessandro Puškin. E arriva nella traduzione, o meglio ritorna nella traduzione di Ettore Logatto, che ripropone Quodlibet, sono 286 pagine, 14 euro. Puškin è considerato il più grande scrittore russo, era nato nel 1799 e morì in duello, come molti ricordano. ricorderanno a 37 anni, e questo è certamente il suo capolavoro. È un romanzo in versi pubblicato tra il 1823 e il 1832, e trattandosi appunto di un'opera in versi si può capire quanto sia difficile renderlo in un'altra lingua mantenendo la musicalità della versione originale. Lo Gatto, a detta di tutti, ci riuscì, ricorrendo al verso classico della poesia italiana che è l'endecasillabo, e lo testimonia questo successo di Lo Gatto queste righe che adesso vi faccio ascoltare. Sono le righe iniziali che presentano il protagonista, un giovane dandy brillante, annoiato e cinico, di cui il romanzo racconta le vicende. Quando la burrascosa giovinezza alla porta d'Eugenio un dì bussò, età di speme e tenera tristezza, la famiglia il francese licenziò. Così Eugenio, a se stesso abbandonato, sempre all'ultima moda pettinato, vestito come un dandy londinese, col gran mondo contatto al fine prese. Conversava e scriveva con sicura padronanza in francese, nella danza sapeva volteggiar con eleganza e si inchinava con disinvoltura. Che altro volete? Il mondo immantinente lo proclamò gentile e intelligente. L'altro grande classico che vi propongo, anche questo straniero, è Stendhal, di cui viene ripubblicata da Mursi la biografia che gli aveva dedicato Victor Delitto, un grande studioso dello scrittore francese. Si intitola il libro La vita di Stendhal, 346 pagine, 18 euro. La vita di questo grande scrittore al secolo è Henri Bayle, che visse tra il 1783 e il 1842, è essa stessa un romanzo. Lo scrittore è uno dei più grandi dell'Ottocento, autore di capolavori immortali, espressione della rivoluzione culturale che ne accompagnò la carriera nel segno poi dell'influenza di Napoleone. Insomma, Stendhal fu tutt'altro che un letterato tranquillo, basti pensare appunto alla sua carriera accanto a Napoleone, che avrebbe segnato in maniera indelebile la sua vita. E famosa è rimasta, soprattutto in Italia, la passione di Stendhal per Milano, dove lo scrittore arriva nel 1800 assaporando immediatamente niente di meno che la felicità, così descritta nelle pagine di Delitto. Milano, la campagna lussureggiante della Lombardia, la musica di Cimarosa. Ah, qui non rimane deluso. Non è possibile, sinceramente, fare alcun apprezzamento. Egli si sente circondato, penetrato da un'atmosfera di felicità ineffabile. Vi si immerge, vi sprofonda. Niente al mondo gli ha dato questo sentimento di completezza. Egli vi trova piena soddisfazione come nel proprio elemento. Ormai tutto nella sua vita sarà condizionato da questo sentimento. Il valore di tutte le sue esperienze amorose o artistiche, le sole che contino per lui, sarà giudicato facendo un confronto con questa bellezza perfetta. Il giovane pieno di stupore guarda, scopre, respira la gioia. Tutto è l'opposto della sua ripugnante e odiosa città natale, dove sono belle soltanto le montagne, ma quelle che si vedono da Milano lo sono ancor di più. Nessuna delle persone che Bayle incontra per le strade, dal facchino al gran signore, ha quell'espressione sorniona, meschina, scaltra, pignola, egoista, limitata, che è tipica dei delfinatesi. Egli ha l'impressione di guizzare in mezzo a dei personaggi che hanno preso improvvisamente corpo, delle opere romanzesche che hanno formato il suo cuore e popolato la sua fantasia. E altrettanto, forse più di tutto il resto, lo colpisce l'architettura, il grandioso opposto al misero, la grazia alla bruttezza, la ricchezza ai muri tetri e rovinati che i suoi occhi si erano abituati a vedere. Prima di salutarci vi segnalo una iniziativa che inizia il 15 aprile a Milano ed è il Festival Olandese. È un festival organizzato dalla Fondazione per la Produzione e la Traduzione della Letteratura Olandese con la collaborazione di Luca Scarlini, le librerie Feltrinelli e Iperborea. Si svolge soprattutto a Milano, ma ci sono anche degli appuntamenti a Bologna, Roma, Napoli, Trieste e Padova, nel corso dei quali saranno presenti diversi autori olandesi che sono pubblicati in Italia da vari editori: Neri Pozza, Iperborea, Feltrinelli, 091 e Fazzi. E concludo con un'ultima incursione nella poesia. Vi propongo alcuni versi di Enrico Testa, Pasqua di neve, pubblicato da Einaudi, 136 pagine, 11 euro. Vi lascio con questi versi che prendono spunto appunto dalla festa di oggi. Con questo vi rinnovo l'augurio di buona Pasqua, ringrazio Daniele Casagrande e Vittorio Mussi in redazione, Carmelo Lauricella in regia, vi do appuntamento a domenica prossima, passo la linea a Respiro, ma prima, ripeto, ascoltiamo questi versi da Pasqua di neve. Buona Pasqua a tutti. Sul terrapieno della ferrovia rasente il bosco, i tronchi delle acace sono neri dopo la pioggia come righe scostanti di inchiostro. Pasqua è ora la stagnola scolorita e polverosa delle uova appesa ai rami dei ciliegi, strisce palpebranti al vento che dovrebbero tenere a distanza l'invadente nazione dei merli.